Radio 24. Libera la voglia di fare. Fratelli d'Italia, l'Italia le mesta, dai tempi di Scipio finita è la festa. Stringiamoci a coorte, l'imposta è più forte e fino alla morte l'Italia pagò. Sì! I conti della Belva. Di Carlo Alberto Carnevale Maffè, Oscar Giannino, Mario Seminerio e Renato Cifarelli. Buongiorno cari ascoltatori da 24, 17 primi e 40 secondi qui dagli studi Una Assolatissima a Milano in diretta. Vi ringraziano i compari dei conti da Belva, Oscar Giannino e Carlo Alberto Carnevale Maffè. E abbiamo anche il nostro Mario Seminerio. Ci sei, Mario? Eccoci, buongiorno a tutti. E allora io vi dico subito, cari ascoltatori, che nella trasmissione di oggi ci parleremo a lungo con ospiti, a grandissima richiesta torna Fabio Scacciavillani con il professor Zagovesi di banche, per quello che è successo in Spagna, in Italia, sta succedendo, torneremo a occuparcene. Poi faremo un punto sul mercato del lavoro, e lo faremo però perché si è tenuto in questi giorni il congresso di un sindacato che ha il coraggio di dire che i giovani fanno bene a voltare le spalle al sindacato, quindi sarà con noi Marco Bentivogli, che è il segretario della FIMCISL, appena uscito, confermato, e naturalmente torneremo sui numeri del mercato del lavoro, i numeri del primo trimestre che sono uscito ieri, ma iniziamo subito perché poi Mario ha da fare, quindi acceleriamo immediatamente. Ricordati che devi morire! Ecco qua, iniziamo immediatamente la rubrica con Mario, ricordati che devi morire. No, la nostra è una lezione di vita, non è una lezione di morte. Allora Mario, questa settimana... No, beh, vita ma grama però, Mario, molto grama ma la vita. No. Senti, no, questa settimana, allora, la notizia comunque che mi è piaciuta di più è quella che si legge stamattina sul Corriere, relativa al direttore generale uscente di Agenzia delle Entrate, no? L'avrete letta anche voi, Rossella Orlandi, che ha ritenuto di convocare il comitato generale e di farsi assegnare la vice direzione generale, che vuol dire il controllo della sua agenzia del territorio. Quindi, con buona pace, come dire, dicono che è il contratto dei dirigenti dell'Agenzia delle Entrate che consente queste autoblindature. Diciamo, in un paese liberale, ormai questo è un termine talmente logorato che non se ne può più. Ognuno si assegna la satrapia che preferisce. Tieni conto, ricordiamolo, con la Orlandi, l'Agenzia delle Entrate ha continuato la sua imperterrita battaglia per non ottemperare da più di 2 anni alla sentenza della Corte che obbliga lei, come tutto il resto dello Stato, ad avere dirigenti nominati solo per concorso, e l'Agenzia delle Entrate si oppone. È uno Stato nello Stato, ok. Esatto, lo stato di rovescio nello stato di pseudo diritto. Però io invece parlerei, appunto, ma lo farete anche voi nel prosieguo della trasmissione con gli ospiti, della vicenda Banco Popular Santander. Anche perché questa settimana hai scritto parecchio. Ma ho scritto parecchio perché ti confesso che ho cercato di... Io quando scrivo molto è perché dialogo con me stesso. Questo conferma i sospetti che io sia un dissociato. Piantala. Probabilmente. Piantala. Però a parte ciò, no, la domanda centrale che poi andremo a sviscerare è... Quello che è avvenuto con il Banco Popular è un vero bail-in? Esatto. La mia risposta è sì, è un vero bail-in a termini di applicazione della direttiva BRRD. Un'altra domanda è, quello che è avvenuto con il Banco Popular è un modello universalmente applicabile ad ogni situazione di dissesto bancario in Europa? Io qui sono più problematico e più dubitativo, perché secondo me banca fa storia a sé, ogni banca ha una struttura dell'attivo e del passivo differente. Ad esempio è stato fatto notare che Banco Popular se l'è cavata, tra molte virgolette, semplicemente azzerando gli azionisti e azzerando gli obbligazionisti subordinati Tier 1, quindi con i Coco Bond, e Tier 2. Non sono arrivati a fare bail-in dei senior, che come sapete il bail-in dei senior è considerato la colonna d'Ercole, le colonne d'Ercole del panico e della destabilizzazione sistemica. Di questo parlerà il professore Erzegovesi, che è un'autorità in materia, diciamo, oltre che grande esperto. Quindi la mia risposta è ni, perché il Banco Popular non necessariamente rappresenta un template per tutte le situazioni. Però altra domanda, altra questione. Però aspetta, io sottolineo l'importanza, e la risposta che hai dato è una risposta che ci vede tutti condividere qui. La risposta che hai dato comunque alla domanda è applicazione della direttiva del Bail-in. La risposta è sì, perché i giornali italiani su questo hanno alimentato un caos di idee. Ripetiamolo chiaramente. Sì, i giornali italiani hanno scritto tutto il contrario di tutto, incluso il fatto che si sarebbe trattato di un salvataggio. Adesso io non so etimologicamente e giuridicamente il concetto di salvataggio in quale corpus normativo stia scritto, però non è stato un salvataggio, o meglio, è stata una risoluzione avvenuta mediante azzeramento di alcune classi di stakeholders. Ribadisco, contrariamente a quello che è stato scritto su prestigiosi giornali, da prestigiosi editorialisti ad personam, che per avere risoluzione bail-in non serve avere una nuova entità societaria a cui riversare la parte in bonis della banca, perché è sufficiente procedere all'azzeramento di alcune classi, diciamo, delle passività oltre che dell'equity. Però l'altro elemento che mi colpisce molto è il sistema paese. Voglio dire, Santander, ricordiamolo, è una banca sistemica globale, quindi diciamo è una omologa equivalente del nostro UniCredit, è guidato da Ana Botín, perché Santander è una banca dinastica da parecchie generazioni, ha avuto numerose profferte da parte del CEO uscente di Popular per comprarselo, che ha sempre resistito ritenendo che il frutto non fosse ancora maturo per cadere dall'albero. Dopodiché sono intervenuti. Ora, hanno fatto un grande affare? Hanno fatto un pessimo affare? Non lo so. Però quello che mi colpisce è che in Spagna, molto rapidamente, con un taglio netto, nel corso della notte, con la piena collaborazione e coordinamento delle autorità di risoluzione europee, della Banca Centrale Europea, della Vigilanza, della BCE, si è giunti a questo esito. In Italia non accade nulla del genere. Le situazioni vengono fatte marcire fin quando un dissesto di un'azienda, quanto un'azienda del tutto peculiare come una banca, diventa un reattore di Fukushima potenziato. E infatti, questo è il concetto che dobbiamo farci. Su questo, la domanda che noi porremo dopo al professor Zegovesi e a Fabio Scaccina è esattamente questa. Non è che, questa è la mia opinione personale, però, e quindi lo porgo come domanda, ma traendo spunto da te: non è che l'abbraccio tra politica e regolatori italiani, la vera ragione che li rende inefficienti e tardigradi come bradipi nella soluzione delle banche in crisi, che diventano a quel punto un problema sempre più insolubile, hanno reso radioattivo il giudizio dei mercati nel tempo e aggravano i costi poi di intervento sulle stesse banche nel passare del tempo? Questa sarà esattamente la domanda. Oggi, per esempio, il professor Ruozzi su Settimana MF parte dall'analisi del caso spagnolo, come ha fatto Mario, e dice: no, certo, c'è molto da insegnare. E dice anche lui: la rapidità dell'intervento, la rapidità, e certo anche la conversione dei junior, certo è subordinata, sì. Però ci dice, insomma, che l'intervento deve essere di Stato. E uno dice: professor Ruozzi, come sarebbe a dire? Sei partito bene e poi arrivi male. Intervento di Stato. Vabbè. Infatti, no, questa è anche la stessa posizione di Angelo De Mattia, no? Che si è fatto titolare, gli hanno titolato la lezione spagnola per le banche italiane. Allora uno si dice: vuol dire che c'è l'intervento del settore privato con bail-in? No, dobbiamo violare le norme europee e procedere ad una integrale nazionalizzazione. Io veramente a volte mi pare di vivere in un universo parallelo in questo paese, un universo dove tutti tengono bordone a tutti e gioiosamente discendono all'inferno. Questo è il punto centrale. Fammi ricordare, Mario, che non sono norme europee, sono norme italiane, sono leggi italiane. Qui siamo i politici che invitano alla violazione delle leggi. Cioè, gente si dimentica che la BRD è stata recepita l'11 settembre del 2015 e a tutti gli effetti parte dell'ordinamento italiano. Forse la gente si è dimenticata di questo. I nostri geni, poi, diciamola tutta, nel cosiddetto pecking order, cioè l'ordine delle priorità nella risoluzione, i nostri geni hanno messo i depositi pari passo con le obbligazioni senior. Depositi corporate, sì, depositi delle grandi aziende. Esatto, scusami se è poco, per cui certo, quella è stata una levata di ingegno puramente sovrana domestica del cortile di casa, che non fa altro che peggiorare la situazione. Certo, perché poi ovviamente favorisce il deflusso finanziario, quindi la fuga dei capitali, e quindi peggiora la situazione della banca. Appena c'è qualcosa che non va, le grandi corporation scappano, peggiorando la situazione. Bravissimi, complimenti, clap clap. Io però vi devo ricordare che non sono solo editorialisti e vice direttori ad personam che inventano le liquidazioni ordinate e così via. Oggi MF c'ha un'intervista un'intervista a Messina di Intesa San Paolo, il cui titolo è "Chi ha accettato questo bail-in dovrebbe dimettersi". Allora, volte mi chiedo se i banchieri non rilasciano dichiarazioni per compiacere regolatori l'abbraccio politico regolatori, perché ho troppa stima dell'intelligenza e della parola professionale di Intesa di Messina per credere davvero che lui creda a questa roba che ha detto. Però, per farti capire come siamo messi. Io sono d'accordo, e poi diciamola tutta. Banco Popolare ha sofferto una corsa agli sportelli che si è esaurita nell'arco di 36 ore. Mentre noi. Allora, sì, però ti dico, secondo me, vista la rapidità di avere bruciato una ELA, una Emergency Liquidity Assistance, da 3,6 miliardi di euro per dare i soldi ai depositanti che fuggivano in 36 ore, mi viene da pensare che quelli fossero depositi corporate, che sono quelli che si volatilizzano con maggiore reattività e sono quelli che portano a morte la banca. Noi abbiamo preferito, probabilmente per la predominanza del retail, dare una linea di liquidità garantita dallo Stato per tenere le banche in, come dire, stato vegetativo. Poi, guarda, io... Poi però credo che la preoccupazione tornante sul tamburo di Viola in questo fine settimana, che i giornali descrivono infatti come allarmatissimo, per dire ci vuole subito la soluzione, ricordiamo che ci sono i consigli di amministrazione convocati per martedì e mercoledì di Vicenza e di Veneto Banca, secondo me si deve al fatto che oramai anche lì di liquidità in uscita ce ne deve essere. Sì, e oltre al fatto che appunto Viola ieri ha dichiarato una cosa veramente inquietante, cioè che sta uscendo anche la raccolta diretta, cioè... Però questo vuol dire che gente che aveva le obbligazioni, anche senior e quant'altro, sta chiedendo di liquidare e di uscire. Ora, io non vorrei commentare oltre le posizioni di Viola. Credo che sia in una situazione anche personalmente difficilissima. Sono d'accordo. Perché ci sono risvolti legali molto pesanti legati all'attività del CDA di quelle due banche nella persistente inerzia della soluzione della vicenda. Però, ripeto, nel nostro caso, andiamo a vedere all'origine, subordinati messi nei portafogli del retail come se non ci fosse un domani, in violazione della MiFID, in violazione del buon senso, con delle palesi forzature, nella assoluta negligenza, trascuratezza di ogni tipo di regolatore, e adesso è scattato il panico. Poi naturalmente alcune posizioni, tipo la CGA di Mestre, che vabbè è sempre presente, presto avremo, dopo le frasi di Osho avremo le frasi della CGA di Mestre. Post Bortolussi. Esatto, che dice beh, un fallimento di quelle due banche sarebbe una catastrofe, porterebbe il Veneto agli inferi. Ragazzi, cioè, io ti ricordo, gli affidamenti vengono subentrati. Ricordo a voi tutti che dopo la settimana scorsa, quando Viola disse che c'era rientro in bonus di oltre 30 dei 42 miliardi di impieghi all'economia, e ricordo, cari ascoltatori, che siamo stati gli unici a dirvi che Viola dopo una cosa simile dovrebbe andare a casa, esatto. Come avete visto su Corriere della Sera si è dovuto rimangiare tutto, ma... Io vi sottolineo, cari ascoltatori, gli unici a dirvelo subito, perché evidentemente con un minimo di cognizione delle norme siamo stati noi. Adesso, ma però detto tutto questo, il mantra è stato sostituito, non essendo più possibile raccontare quella di storia, con il costo che sarebbe la copertura dal fondo miliardi. Dei depositi, 11 miliardi non se non interviene di questo genere. Esatto. Ricordiamo che quello che c'è sulla Banca Popolare è una risoluzione ben applicata dal punto di vista delle regole europee, spagnole e anche italiane. Il Banco Popolare è stato risolto. C'è stata continuità aziendale, ma grazie a questo nessuno ha dovuto rientrare dai suoi crediti. Cari ascoltatori, diffidate quando leggete o ascoltate, vi dicono se non si fa così alle Venete, hanno ragione alle Venete, abbiamo fatto ragione, perché altrimenti ci sono 11 miliardi. Vi stanno raccontando una frottola, vi prendono per i fondelli, vi raccontano una storia che è diversa dalla realtà che loro conoscono. È gente in malafede, forse informazione o amministratori di banche, verso i quali io comunque condivido il tono di comprensione per la situazione in cui si trovano, appena usato da Mario solidarietà Seminerio. Umana, esatto, perché questo non mi sfugge. Però vi raccontano balle! E noi tre, noi quattro, noi cinque, saremo quattro gatti che non siamo però incatenati alla corresponsabilità di questo abbraccio tra regolatori ciechi e politici. Noi facciamo il nostro mestiere finché ce lo fanno fare, e con un tono diverso dal mio, che servo insieme agli altri per fare brim brim brim e raccogliere la vostra attenzione, vi dico grazie a Mario Seminerio, grazie a Carlo Alberto, grazie a quelli che invitiamo, perché tentiamo di dissipare l'ombra delle sciocchezze, chiamiamole così. Facciamoci un giro in macchina, va, traffico. L'Italia, l'Italia, l'Emesto, dai tempi di Scipio finito. Della belva. Tornati in diretta, eccoci tornati in diretta con Carlo Alberto, mentre Mario deve intervenire a un convegno, quindi intanto nel frattempo ci ha lasciati, ma siamo riusciti a farvi sentire la sua voce su questa vicenda che ha visto da una parte l'intervento su Banco Popolare in Spagna fatto in poche ore con i giornali italiani che hanno tentato in tutti i modi di descrivere questo intervento come qualcosa o di diverso da quello che era o di simile a qualcosa che si vorrebbe fare in Italia, non era né l'uno né l'altro, quindi una vastissima cortina di intossicazione dell'informazione italiana su questo. I tempi di intervento rapidissimi, noi ci continuiamo a far rotolare invece questo, i guai delle due venete di Siena e così via. È in corso, smentendo clamorosamente la posizione assunta dagli amministratori delegati di Unicredit Intesa, che avevano detto mai più sostenere da parte di banche sane. Abbiamo già dato con Atlante, mai più chiedeteci il sostegno per banche che non si reggono. Una nuova, ovviamente coattiva raccolta finto volontaria in questo fine settimana. Abbiamo detto ci sono i consigli di amministrazione in corso, ciascuno però ripete se ci stanno tutti. Anche Ennio Doris ieri ha detto no, io ci sono, lo faccio, se ci stanno tutti. Vediamo, il costo di mettere a carico delle banche più sane gli interventi in banche in cui attualmente, malgrado tutte le chiacchiere, Carlo Alberto, né il rapporto cost-income, questo è il problema, tornare a fare reddito è chiaro, ma che senso ha, Carlo? Vedi, Oscar, ti ricordo che l'intervento di ricapitazione precauzionale presuppone la capacità della banca di ripagare quei soldi allo Stato con tanto di interessi. Questa gente se lo dimentica, guarda che vale anche per MPS, che è in tutt'altra situazione per fortuna. Ma il problema è vero che per riuscire a ripagare quel debito, perché è un debito nei confronti dello Stato, la banca deve produrre utili a manetta nei prossimi anni. La vedo difficile, veramente. Quindi... Allora, io voglio ricordare comunque, adesso riesamineremo anche queste questioni con i nostri due ospiti. Io voglio ricordarvi che questa è stata una settimana ricca di veramente da tutti i punti di vista, perché ci abbiamo avuto Theresa May, ma ne parliamo con Udo Gumpel, certo, alle 11:30. Domani c'è la Domani c'è il primo turno delle legislative francesi e guardate, votano anche a Como domani, che mi sembra centrale nel futuro dell'Europa. Sparite le elezioni in alcune decine di capoluoghi italiani per via di quello che è successo, la politica che si è autouccisa da sola per l'ennesima volta. Ma in Francia, anche se non ve l'hanno proposta l'attenzione, guardate che sta avvenendo un cataclisma, perché nessuno, quasi, dopo, sia pur dopo la vittoria di Macron all'Eliseo, credeva che con il maggioritario a doppio turno e la soglia potesse davvero pensare di arrivare da solo alla maggioranza assoluta. Non ce la farà mai, non ce la farà mai. I sondaggi, la maggioranza assoluta è 289, gli attribuiscono voti seggi tra i 380 e i 420 a un partito che non esisteva, per il solo fatto di non essere compromesso con le tangenti, di non riproporre vecchi tamburoni. I socialisti potrebbero avere la rappresentanza parlamentare ridotta a un decimo degli oltre 250 eletti oggi. Quindi un cataclisma, vedremo. Benvenuto dal mio punto di vista. Però devo devo segnalare una cosa ieri sera molto interessante. Siamo ufficialmente un paese in via di sviluppo, in fuoriuscita dal comunismo, perché ieri sera il governo ha pensato di reintrodurre le zone economiche speciali. La notizia è che stiamo uscendo dal comunismo. Stiamo uscendo dal comunismo. Sì, mi sembra una bella notizia, insomma, però è un bel segnale. Almeno lì c'è la manina di Carlo Calenda. Perché l'idea di reintrodurre uno strumento adottato dalla Cina di Deng, dalla Polonia post-comunista, le zone economiche speciali, cioè posticini. Polonia ha fatto benissimo. Sì, ho capito, in uscita dal comunismo, capisco. Ma quindi mi sembra realistico. Ah, in questo senso. Fatemi dire però che se il governo ancora una volta si arroga il diritto di scegliere dove l'impresa deve investire, a che condizioni e di nuovo frammentando fiscalmente il patto fiscale del paese, secondo me sbaglia. Facciamo così, allora prendiamo i server dall'Irlanda, li porti quelli di Amazon, quelli di Facebook, magari, li portiamo a Gioia Tauro, magari, e almeno mettiamo a tacere anche questa cagnara sulla web tax, e almeno ci facciamo da un lato il governo di lotta e dall'altro il governo di governo. Ma tu preferisci qualche ZES o la web tax? perché io sono realista, un paese anch'io, dove il governo non distorce anch'io l'allocazione di capitale e lavoro anch'io, scegliendo lui dove conviene investire, allora, per amici degli amici, allora, per quanto apprezzi il fine, perché è chiaro che il fine è riaccendere un po' di speranza di investimenti nel sud, ma questo mezzo, mi spiace, è un mezzo condannato dalla storia. Allora torniamo a tentare di capire, approfondire un po' meglio come l'Italia non riesce a spiegare e a fare ciò che è una norma anche italiana e ciò che altrove viene applicato in poche ore se necessario nelle banche, e quindi con i nostri ospiti. Ringraziamo di aver accolto il nostro invito il professor Luca Erzegovesi, che insegna finanza aziendale all'Università di Trento. Buongiorno e grazie. Buongiorno, grazie a voi di questa occasione per parlare di un argomento difficile, caro Luca, molto difficile. In effetti abbiamo invitato te stavolta. Allora, io comincio da lei, poi subito dopo la prima interruzione ci abbiamo anche il secondo ospite, Fabio Scacciavillani, che arriva. Lei è d'accordo innanzitutto? Prima abbiamo fatto alcune precisazioni, per così dire, epistemologico-normative, perché sui giornali italiani sembrava quasi prevalesse, e prevalsa anzi la tesi, ma quello non è. Vede, è la prova provata, cari lettori italiani o cari ascoltatori italiani, che chi vi dice che bisogna applicare la direttiva BRRD sulla risoluzione del bail-in sbaglia, quello non è bail-in. Noi abbiamo dato un'interpretazione per la quale secondo me è esattamente quello che è contemplato nella direttiva per il bail-in. Lei che dice, professor Zegovesi? Allora, su questo vorrei far parlare i fatti che sono galantuomini. Ho fatto un po' di compiti a casa in vista della chiacchierata di questa mattina sulla normativa, e è stata applicata una risoluzione che è una procedura di gestione della crisi in cui interviene un'autorità, che in questo caso è il Single Resolution Board europeo, con dei poteri speciali che sono consentiti per finalità di interesse pubblico. La risoluzione prevede vari metodi. Allora, nel caso specifico, cos'è che è accaduto tecnicamente? I portatori di azioni, obbligazioni subordinate, strumenti COCO del Banco Popolare sono stati come espropriati, e questi titoli sono stati ceduti al Cavaliere Bianco che è intervenuto, che appunto è il gruppo Santander. Quindi quello che è avvenuto è degli strumenti, il cosiddetto sale of business tool. Sì. Quindi qui stiamo parlando però di aspetti nominalistici, perché dal punto di vista degli effetti per gli azionisti e gli obbligazionisti, l'effetto è, infatti, l'effetto è quello che poi io di solito tendo a privilegiare la sostanza sulla terminologia. Comunque direi che... No, chiariamolo però, perché l'effetto è quello, cioè che vengono azzerati. L'azzeramento, esatto. C'è una banca in difficoltà che probabilmente ha un patrimonio che è diventato inadeguato, il valore di questa banca come attivi è diminuito, i soci attuali e quelli che hanno concesso finanziamenti con strumenti di capitale vengono messi fuori, ecco, fondamentalmente. Quindi in questo modo si ha la possibilità di cedere la banca così com'è a una terza parte. Questo spiega la rapidità. E questo spiega però la differenza italiana, per il quale quando si fa anche per il junior ci vuole il ristoro di Stato, perché c'è un problema di copertura della cecità dei regolatori nel piazzarli. Quando invece di ristoro non si parla assolutamente nella risoluzione fatta in Spagna, e quando invece si parla di ristoro a carico della banca in caso di miscelli nel documento emesso dalla DGCOMP per Montepaschi di Siena. Quindi in nessun caso l'Europa accetta un ristoro a carico dello Stato. Fermi un secondo e poi torniamo dopo la pausa con il professor Zegovesi. I conti della belva. Eccoci qua, siamo tornati in studio col compare Carlo Alberto. Carlo Alberto, eravamo rimasti appesi perché noi siamo intervenuti dopo che il professor Zegovesi ci ha detto: no, è un'applicazione, è una normativa, eccetera. Sì, però noi abbiamo detto: non c'è il ristoro, non è a carico dello Stato, anzi, eccetera, eccetera, per la conversione dei subordinati junior. E il professor Zegovesi si sentiva in sottofondo e diceva: sì, sì, però. Eccoci, professore. Allora, una rapidissima cronistoria di Banco Popolare, perché la soluzione è stata lampo, però la gestazione di questa crisi ha coperto almeno 5 anni. Nel 2012, quando c'è stato quel piano di messa in sicurezza del sistema finanziato con i fondi europei del meccanismo di stabilità europeo, Banco Popolare è finito nelle classi di triage, nella fascia 3, cioè quelli con le criticità che però non abbisognavano di una capitalizzazione pubblica. Borderline, con la possibilità di trovare le risorse sul mercato, ha superato la asset quality review, gli stress test nel 2014 e nel 2016. L'anno scorso ha fatto un aumento di capitale, magari un po' alla Veneta, se posso dire, Luca, è un po' alla Veneta, cioè con un po' di partite di giro, modello baciato, esatto, cioè mi aumenti, cioè, il capitale di qua, ti lascio i prestiti di là, dico bene? Di certe cattive condotte che noi abbiamo stigmatizzato nel caso delle banche popolari venete, per poter far fronte a questa richiesta dei supervisori europei di una rafforzamento patrimoniale per alzare i coefficienti di solvibilità, queste cose in Spagna sono accadute. Ora, il Banco Popolare con questa soluzione, dal punto di vista giuridico, mette al riparo l'acquirente, che è Santander, da azioni di responsabilità da parte degli azionisti e degli obbligazionisti subordinati. Però bisogna vedere se questa è una cosa da ammirare, da apprezzare oppure no. C'è un precedente, che è quello di Bankia, quella banca risultante della gestione delle grosse casse di risparmio, la quale nel 2011 ha fatto un IPO, un aumento di capitale per la quotazione in borsa, sulla base di dati di bilancio che poi si sono rivelati appunto gonfiati, quindi c'erano delle perdite latenti che non erano state rivelate. E nel 2016 ha rifuso le perdite al 100% agli azionisti che erano stati vittime di questo mis-selling con 1,8 miliardi. Chiaramente non. Però professore, mi scusi. L'ha messi la banca, ma la banca è stata ricapitalizzata con risorse del Stato. Professore, però mi scusi, cioè, ovviamente noi la ringraziamo perché la correzione serve a capire. Noi qui non sosteniamo che i problemi ci sono solo in Italia. Spagna, sì, come ovvio, Spagna ha avuto l'intelligenza. Portogallo, mi piace, ragazzi, io andai Portogallo da Monti a sostenerlo nel 2012. Da Monti a dirgli facciamo come loro. Quindi si figuri, io avrei preferito quella cosa. Oscar, lì. Ricordo a tutti gli ascoltatori che Oscar voleva nazionalizzare, dice, una nota banca toscana oltre 500 anni e restituirla rapidamente al mercato. Non mi pento di averlo pensato allora, penso che sarebbe stato un intervento con i cui costi sono erano meno gravi, e quindi figuriamoci, e anzi è una prova del fatto che non sono un ideologista del pifero. Quindi il problema non è questo. Certo, ma posso su questo, ha visto che però questo intervento del 2012 non è stato risolutivo. Sono d'accordo. Nel senso che ha lasciato delle, diciamo, criticità aperte che poi sono esplose. Nel caso di Popolare si stanno affilando le armi i legali dei vecchi soci che sono stati azzerati, cioè dal punto di vista giuridico c'è una protezione che dà la direttiva BRRD, però anche in questo caso potrebbe esserci un movimento di reazione, di protesta da parte di tutti questi azionisti che sulla base appunto di situazioni patrimoniali che sono state riproposte e portate avanti hanno passato anche le valutazioni della vigilanza europea, si sono ritrovati nel giro di pochi mesi a vedere una situazione che partiva da solvency ratio di tutto rispetto a vedere un crollo con corsa agli sportelli. Allora, un'ultima informazione su Popolare, poi non voglio più annoiare. Poi ti devo portare sull'Italia, Luca, rapidamente. Voglio ascoltatori, poi andiamo sull'Italia. Allora, a quanto ho capito, la bomba che è scoppiata è data dalle perdite latenti non su crediti deteriorati, ma sul portafoglio di immobili certo. Popolare, e il fatto che gli stress test siano stati passati, diciamo, con una sufficienza magari risicata, punta non pienissima, è legato al fatto che mentre la modellistica dell'EBA della BCE è molto precisa nell'andare a, come dire, affondare la lama nel vedere appunto l'emersione di perdite nello scenario avverso, probabilmente c'è un buco nei modelli, anche perché in Europa per fare gli stress test ci si appoggia ai modelli di pricing, ai modelli di valutazione dei rischi delle banche, mentre invece negli Stati Uniti la Federal Reserve rifà in casa sui propri algoritmi tutte le valutazioni. Ecco. Quindi proprio diciamo di questo devo parlarti, Luca. Esemplarità. Però è chiaro, noi dobbiamo, non voglio assolutamente dire penaltrismo anche loro, no. A me interessa soprattutto quello che accadrà in Italia. Ecco, infatti, siccome tu sei uno di quelli che appoggia la proposta della CISL, FIRCISL, di sostanzialmente creare un fondo di acquisto degli NPL finanziato con ritenute del 5% sugli stipendi dei bancari, io ti chiedo, ma è un buon consiglio che diamo ai nostri amici bancari? Cioè, non è contrario al principio di decorrelazione, di diversificazione? Cioè, si devono comprare la spazzatura che i loro dirigenti gli hanno creato? Sei proprio sicuro che sia una buona idea per alleggerire il carico degli NPL? Posto che un veicolo, anzi, posto che il mercato debba dare un prezzo corretto agli NPL, e su questo siamo d'accordo, perché dovrebbero investirci i dipendenti bancari? Volevo capire la ratio della tua idea. Certo. Allora, non appoggio questa proposta, ho detto guardo con un'ingenua simpatia questa proposta e mi metto a disposizione di chi l'ha formulata per convalidarla. Mi sono offerto di fare un auditing delle simulazioni che avranno probabilmente abbozzato o impostato. Chiaramente è una proposta che va ad affrontare quel tema che ci trasciniamo da anni, cioè il fatto che abbiamo una massa di NPL che ha cresciuto un'incidenza. NPL, giusto per precisarlo, sono i non performing loans, cioè i crediti deteriorati, prestiti fatti dalle banche e non correttamente restituiti. Quindi una incidenza che ha toccato il 35-50% nei casi più critici. Quindi svalutare queste partite produce delle perdite, per capirci, che rischiano di svuotare il patrimonio, cioè non soltanto creare situazioni di carenza di patrimonio rispetto ai requisiti, ma addirittura nei casi più gravi anche di insolvenza tecnica. Quindi la questione è diciamo trovare una sistemazione evitando una drastica svalutazione. La drastica svalutazione però non ti seguo, scusa, il prezzo lo fa il mercato, mica Atlante o i sindacati in consorzio, scusami Luca, da quando in qua? Allora c'è un mercato del debito distressed che lavora su certi prezzi, ma qui si è discusso molto quando è stata presentata l'iniziativa di Atlante, e c'è invece, lo riconosce anche la Commissione europea, un fair value economico, che è quello su cui insiste la Banca d'Italia nei suoi studi, dicendo no, si dimostra che su 100 mediamente riusciamo a recuperare 40, mentre il prezzo di mercato è 22, 15 oppure 8. Quindi si stanno utilizzando tante soluzioni di ingegneria contabile, finanziaria, la garanzia pubblica, la cartolarizzazione, per spostare fuori dal bilancio queste partite ad un prezzo. Però professore, le posso fare una domanda? Perché io ci sono delle cose che proprio non capisco. La Banca d'Italia continua a sostenere questo. Naturalmente il sottinteso, per far capire a chi ci ascolta, si recupera 40 se ci sono 7-10 anni a disposizione. Il sottinteso è che ci vuole una continuità patrimoniale e solidità di conto economico per farlo. La Banca d'Italia sostiene che questo va applicato a banche che non hanno né quella solidarietà patrimoniale né il conto economico, per essere, come sempre, sintetico, certo, e polemico. Ed è questo che non mi convince, professore, capisce? Perché l'affaccendarsi di tutta la comunità accademica italiana a sostegno del regolatore, quando stiamo parlando di banche che fatte, tenute appese con lo spillo per anni, di questo stiamo parlando, non risolvono nel frattempo il problema del conto economico. Come li fanno gli utili? Certo. Ecco, uno, tanto due, con un modello di business basato sugli impieghi che non reggono appare, più. Appare a me, che sono naturalmente senza titoli, come la colossale riprova della assoluta, tenace mancanza di volontà di prendere atto che non ha senso fare questa roba qui. Perché o qualcuno mi dice abbiamo la sostenibilità per aspettare quel recupero, o altrimenti, mi dispiace, stiamo parlando della luna. Perché altrimenti, perché il prezzo è più basso, esatto, del mercato? Cioè, perché conta sul fatto che quella sostenibilità di quell'orizzonte temporale non c'è. E la Banca d'Italia poi mi dice, e infatti non c'è. E allora... Ma una market failure così spettacolare, tipo che il pricing è sbagliato del 100%, capisci? E allora ecco il cantiere italiano della logica sistemica. Atlante, quando io ho riso amaramente, perché io voglio bene e stimo Alessandro Penati, alla presentazione che lui ha fatto, il cui obiettivo dichiarato era il repricing non solo dell'intero mercato degli NPL italiani, ma dell'intero equity del sistema bancario italiano. Chi aveva ragione? Penati o io che ridevo? Amaramente dico che avevo ragione io, e lo dico amaramente, professore. Lo dico amaramente perché vorrei vedere una comunità accademica italiana un pochino meno, diciamo così, vincolata a questa logica, i cui fondamenti io non capisco, non perché io sia per far fallire le banche, perché, al contrario, perché non mi sfugge che è una cosa di una certa delicatezza da evitare, però tutti hanno detto non le finanziamo. Io oggi spero che abbia ragione Repubblica, il cui titolo è Ubi CDP MPS, CDP ho l'obbligo di non credere, crescono i no alla colletta per le banche venete. Ma perché? Perché 2 anni con Atlante abbiamo visto dove porta questa logica, e invece insistiamo, e invece insistiamo, e invece insistiamo, e invece di parlare, che cosa ci insegna l'ultima vicenda, cioè niente ristoro di Stato della, continuiamo a dire ma gli stress test, ma i problemi ne hanno avuti ancora, ok, verissimo, ma intanto noi cosa diamo come risposta lunedì, martedì e mercoledì ai CDA di Veneto e di Vicenza? Lo so, sono un aggressivo polemico del piffero, intanto però adesso andiamo in... Faircam Logistics, gli specialisti per la tua supply chain. Scopri di più su faircam.com. Vi presenta Fratelli d'Italia, l'Italia alle mesta, dai tempi di Scipio finita è la festa. Stringiamoci a corte, l'imposta è più forte, e fino alla morte l'Italia pagò. Sì! I conti della belva. Ed eccoci tornati qui in diretta con noi il professor Luca Erzegovesi, che insegna finanza aziendale all'Università di Trento, ma ci ha raggiunti a grandissima richiesta, perché dopo l'ultima puntata, la grandissima richiesta, e lo precediamo con una sigletta verdiana per far capire... Il Solve Seculum in Faville, che poi, ecco, il Solve Seculum in Faville, poi alla fine cos'è? La storia dell'asteroide, è no? La storia Fabio? Dell'asteroide. Fabio Scacciavillani è con noi, Chief Economist Global Investment Fund. Allora Fabio, insomma, abbiamo un'entrata un po' di quelle, però verdi. Allora, hai sentito il dibattito che abbiamo svolto fino a questo momento, qual è la tua opinione? Il primo commento è che nell'Accademia Italiana si sta diffondendo questa, quella che io chiamo la sindrome di Pescaracas, no? Ed è la sindrome in che spinge i cosiddetti accademici, non tutti, ma buona parte o almeno una parte consistente, a trasformare paturnie dovute alla legge Basaglia in teorie rispettabili, in teorie che possano essere presentate nei salotti buoni, con la complicità di giornali e televisioni, dove spesso i giornalisti non hanno assolutamente alcuna cognizione di economia, si affidano alle veline e al senso, chiamiamolo così, comune, e comincia a diffondersi tra l'opinione pubblica e il milieu politico tutta una serie di stupidaggini che allineano solo in Italia e in nessun altro posto al mondo. Ci fai qualche esempio, quindi, Fabio? Scusami? Ci fai qualche esempio di stupidaggine che allinea nel nostro paese, non in Spagna, per esempio? Ma diciamo, la sindrome di Pescaracas è quella secondo cui stampando moneta, stampando bungalire, si risolve la crisi italiana e tutti ridiventiamo nababbi. Questo è il, diciamo così, il pezzo pregiato della che viene dalla sindrome di Pescaracas. In Spagna, se vogliamo fare un confronto tra l'Italia e la Spagna, nel particolare caso delle crisi bancarie, si è preso atto della difficoltà dei soldi che servivano per ricapitalizzare il settore bancario, ci si è rivolti all'Europa, l'Europa ha fornito supporto e questa crisi bancaria, che era molto più devastante della crisi bancaria italiana, si sta piano piano risolvendo. In Italia, dove ci sono i fenomeni alla Tremonti, dove ci sono i fenomeni che credono di poter intortare il pubblico e l'Europa, questa crisi è stata negata. E questo non lo sappiamo, si è sempre detto il sistema bancario italiano è il più solido, non è stato colpito dalla crisi dei subprime perché... Non parlava l'inglese. Non parlava l'inglese. E adesso è pieno non di... È stato colpito. E adesso dice la Banca d'Italia, c'ha gli NPL in percentuale più alta di tutta Europa solo per via dell'effetto della crisi che qui è stata più intensa. Come è evidente, le pratiche di malagestio, credito baciato, relazionale, amministratore, eccetera, non esistono. E questa è la tesi che viene venduta ufficialmente e chi obietta è considerato un abietto provocatore. Abbraccio il governatore della Banca d'Italia nelle sue considerazioni, ha detto giorno verrà in cui vi daremo la risposta, come fa padre Cristoforo a Don Rodrigo, capisci? Chi obietta è Don Rodrigo e quindi morirà di peste, questo è il messaggio che arriva. Vabbè Fabio, scusa. Ma uno può anche, diciamo così, lasciar perdere la discussione sulle cause da dove, esatto, e sulle, esatto, origini, esatto. Il problema è che ci sono dei crediti deteriorati in quantità, sarebbe da dire industriale se non fosse, certo, un termine ironico, e quindi bisogna affrontare questo problema. Non c'è qui si sta procedendo in modo dilettantesco, in modo estemporaneo, e quando io leggo che per la risoluzione delle due venete si punta la pistola alla tempia di banche più grandi e gli si dice o intervenite o prendete i soldi degli azionisti, perché non è che, certo, i soldi delle banche degli azionisti, provengono ma anche da Alfa Centauri, no, ma anche prendete dai... i soldi degli azionisti e accollatevi il peso della risoluzione, altrimenti vi tocca sborsare 11 miliardi perché il fondo di garanzia dei depositi non ha più una lira. Anzi, e voi sarete chiamati a ripagare le perdite dei depositanti. Io questa la trovo una cosa al cui confronto Ghino di Tacco era fior di vestù civile. Allora, questo è quello che noi dobbiamo sottolineare. O si trova una soluzione sistemica in cui si mette sul tavolo la gravità della situazione, si dice banca X, banca Y, banca Z, eccetera, eccetera, hanno problemi di questa entità, per cui servono questi capitali, si va dall'Europa e si dice abbiamo bisogno di questi soldi come ha fatto la Spagna, o se no questa crisi marcirà, produrrà delle piaghe purulente e si porta con sé il resto dell'economia, quel poco di economia sana che ancora sopravvive perché per sua fortuna non ha bisogno del supporto bancario, ma nel momento in cui ne avesse bisogno salterebbe insieme appunto a tutto il resto. Allora fotografia perché ci ascolta, naturalmente no, questo è fuori dall'orizzonte attualmente. I regolatori pensano che le oltre 100 delle oltre 300 BCC che hanno un Texas Ratio molto preoccupante saranno risolte all'interno del loro sistema in maniera cooperativa. Vedremo i tempi e le modalità soprattutto dei poteri delle capogruppo delle holding, mm-hmm, Carlo Alberto, mm-hmm, su questo dovremo stare molto attenti. Sì, che finiranno sotto la supervisione europea, esatto, e quindi andremo a vedere anche lì un po' di stress test e vedere cosa sta negli attivi di queste banche. Questo uno. Due, per le altre la logica è quella cooperativa e non se ne esce. La logica non è applicare la direttiva che consente, come abbiamo visto, e grazie anche al professor Erzegovesi, consente una pluralità di modalità, ma non pretende l'intervento con il ristoro pubblico perché i regolatori non possono ammettere di non aver fatto il loro dovere nell'aver tenuto aperto quel canale che serviva a essere un canale meno oneroso per le esigenze di funding delle banche. Questa è l'unica ragione evidente. Grazie al professor Erzegovesi. Il segnale orario vi è offerto da Logica, spazio, tempo, Modul Block, l'evoluzione del magazzino. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore. Le firme più autorevoli del Sole 24 Ore aprono le porte al mondo dell'attualità politica ed economica nel primo editoriale cross-mediale di informazione. Dal lunedì al venerdì alle 9 e alle 17 su Radio 24 e su RDS e in video su radio24.it e su rds.it. Già corde, l'imposta è più forte e fin- conti della belva. Qui Oscar non c'è più. Oscar, ci sei ma con sì, noi? Ci sono, dai, su, ho fatto sempre prendere questi spaghetti. Comunque, fammi dire, qua ci scrivono gli ascoltatori. Dicono, io la ritenuta la metterei sugli stipendi dei professori universitari. Ale, ecco, te, un messaggino a Luca, anche caro te. Luca, grazie per essere supportato. Non far finta di non essere un professore universitario. E poi un'altra bella cosa, no, beh, interessante, no? Organizzate un corso di finanza per tutti i politici e banchieri. Invitate anche me, però. Chiedete al governo che venga frequentato obbligatoriamente. I banchieri tendono a sapere le cose che si occupano. Tu dici, mentono sapendo di mentire. Io non voglio aggiungere esplicitamente quello che mi limito a pensare, ma se tu lo dici e lo scrivi, io lo controfirmo. Questo non c'è dubbio. Loro mentono sapendo poi di mentire. Poi ci ricordano giustamente che non pagano solo gli azionisti e gli obbligazionisti. In questi giorni, ci ricorda un ascoltatore, Banca Intesa ha spedito a tutti i correntisti una bella letterina in cui comunica l'aumento del costo del conto corrente. Perché purtroppo in commissioni tutti i giorni lo paghiamo tutti noi, il sostegno al titano che deve reggere le sorti del sistema bancario. Vorrei ricordare quindi che non sono solo i fatti straordinari, appunto, quindi l'azzeramento di titoli, ma sono i fatti ordinari di un sistema bancario spesso inefficiente che scarica sui suoi clienti le proprie inefficienze o semplicemente le promesse fatte per sostenere la politica. Oimè. Comunque vedi, un po' di ascoltatori che ci seguono con attenzione ci sono. Dai. E a questi ascoltatori noi oggi volevamo proporre una riflessione, perché si è appena chiuso il congresso di un sindacato del settore meccanico, FIMCISL, che ha un segretario che è stato confermato, Marco Bentivogli, e questo segretario secondo me ha un merito. Io però non voglio cedere nei meriti, perché sennò lo metto in difficoltà, questo, cioè, quindi io devo polemizzare con lui. Ma detto questo, è un sindacato che ha il merito di dire cose un po' sgradevoli, di andare molto controcorrente. Per esempio, una delle cose che mi ha colpito, e che però in linea già col libro di cui avevamo parlato quando è uscito l'anno scorso, è capace di dire: capisco i giovani che ci voltano le spalle, inteso al sindacato in generale. Ricordiamo che il tasso di adesione al sindacato tra i giovani è crollato negli ultimi anni, un po' perché sono meno giovani impiegati, un po' perché oggettivamente la capacità di parlare del sindacato ai giovani è quasi scomparsa, e Marco Bentivogli sta cercando di recuperare da questo punto di vista. Allora, è con noi appunto il segretario confermato della FIMCIS, Marco Bentivogli, grazie di essere con noi stamattina. Grazie a voi. Perché? Grazie. Perché capisce i giovani che volgono le spalle? Ma perché sui giovani in Italia si fa solo retorica, il nostro è un paese per vecchi, in buona salute e con una buona pensione. Non è esattamente un paese per vecchi, è un paese per vecchi benestanti e in buona salute. Perché il sindacato non si è adeguato sufficientemente ai loro linguaggi, soprattutto non si è fatto contaminare. Noi non lo diciamo provocatoriamente, ma l'unica cosa che può salvare il sindacato è un'invasione pacifica di ragazze e ragazzi, come ci fu negli anni 60. Il sindacato ha un'idea e trasmette un'immagine troppo monumentalizzata istituzionale. Noi non siamo né l'INPS né l'ACI, noi non possiamo... Lei per esempio anche ieri, chiudendo la replica, ha detto: noi non dobbiamo avere paura di dire che ci vuole una legge per certificare gli iscritti. Ed è una classica cosa cui il movimento sindacale, quando gli dice applichiamo quello che la Costituzione prevedeva, come per i partiti, anche per i sindacati, una roba che vi dia diritti interni, ma anche un quadro certificato di obblighi, trasparenza, certificazione iscritti, parte patrimoniale di conto economico del bilancio. Lei dice sì, perché no? Esatto. Ma perché no? Guardi, noi in questi periodi siamo riusciti a fare un buon risultato organizzativo, noi continuiamo a crescere da 12 anni in un periodo in cui le cose non vanno così bene per il sindacato, anche perché la trasparenza l'abbiamo sposata come un elemento di credibilità, di reputazione minima. Lei lo sa che la CISL è in corsa, la CISL come federazione è in corsa in incidenti, diciamo, sul suo segretario Buonanni eccetera, che hanno fatto sbarrare gli occhi quando accaddero. Sì, questo è vero, ma sono state cose utili anche ad avere attualmente in CISL le norme sulla trasparenza più rigorose di tutto il mondo sindacale. E noi abbiamo un problema di reputazione, perché nel periodo della crisi un lavoratore che in cassa integrazione continua a versarsi l'1% di una cassa integrazione, che sono circa 650 euro al mese, e tu te li devi meritare, te li devi meritare, devi far vedere dove vanno questi denari. E sui giovani non è vero che i giovani non sono completamente così distanti. Sì, è vero, ce n'è una parte che è apatica, è un po' indivanata sicuramente, però abbiamo fatto una bellissima indagine con il demografo Rosina, Alessandro Rosina, sì. E i giovani dicono: il sindacato è importante, ma bisogna cambiarlo radicalmente. Ecco, noi dobbiamo accettare questa sfida. È chiaro che vanno subito in fuorigioco chi? I sindacalisti che si autoassolvono come i politici, che hanno sempre indovinato tutto, che le hanno azzeccate sempre, che non hanno sbagliato mai. Non vanno fuori gioco quelli che pensano che si può continuare a parlare solo di pensioni di anzianità, di flessibilità di pensioni in uscita, e non bisogna occuparsi rapidamente della fase 2 dell'accordo sulle pensioni, che riguarda le pensioni del futuro. Però ben ti voglio, io ho l'obbligo, fatto... ho l'obbligo di dire sì, poi però se vado a vedere gli impegni a cui i sindacati hanno stappato le bottiglie dell'ultima legge di bilancio per quest'anno, lì i 7 miliardi di risorse sono andati esattamente a invece quello, certo. A fare quella roba lì, non per le politiche attive, infatti, che noi non avremo. Proprio per questo mi riferivo alla fase 2, quella che riguarda la previdenza complementare del futuro, alla non onerosità del... di più forme di contributi versati. Ci sono tantissimi aspetti. È chiaro che, diceva giustamente il ministro Calenda, nello stesso giorno c'era l'incontro sul IGAS 4.0 e quello sulle pensioni. Tutti hanno parlato nel sindacato e nella stampa solo dell'incontro delle pensioni. Ecco, questa immagine rivolta a passato, questa parte... Certo. È troppo parziale. La maggioranza dei miei iscritti andrà in pensione con il sistema contributivo, e non è solo un tema così da poco, perché poi c'è un mercato del lavoro che cambia radicalmente. Se guardo quello che accade attorno a un'impresa metalmeccanica, le due riduzioni classiche di lavoro dipendente e lavoro autonomo non risolvono esattamente la descrizione del nuovo lavoro. Questo è molto importante, questo è molto importante che tu venga specificato. Assomiglia sempre di più a un progetto, e infatti con troppa faciloneria è stato liquidato il lavoro a progetto, che andava invece riempito. E le, come dice il bravissimo professor Faioli, la forma autonoma e dipendente del lavoro sono state due costrizioni un po' fatte su criteri convenzionali, non esattamente realistici. E infatti, se vediamo il mercato del lavoro italiano e il mercato del lavoro americano, il lavoro è sempre più un'altra cosa. Allora cosa facciamo? Difendiamo l'esistente quando l'esistente è anche sempre meno rappresentativo? Perché guardate, difendere l'esistente significa difendere anche noi come ceto sindacale, e io onestamente non ci sto, perché c'è sempre stato un richiamo di una generazione sull'altra rispetto ai gruppi dirigenti sindacali, che parte sempre dal ma voi dove eravate? Ecco, io non mi voglio far sentire dire tra 20 anni ma dov'era Marco quando si facevano queste cose? Ma dov'era Marco quando si spendevano 85 miliardi per le pensioni sotto i 65 anni, certo, e 70 miliardi per il sistema di formazione italiano? Ecco, so che sono cose che non piacciono nel mondo sindacale. Noi pensiamo che dobbiamo avere il coraggio di dire, di sgretolare i tabù anche del sindacalismo. Io nella mia relazione ho detto: la globalizzazione, l'euro, l'Europa hanno fatto molto meglio al lavoro di tanti soldi pubblici spesi male. Grazie per dirlo davvero. Questo Marco, grazie per dirlo forte e chiaro. Ma io lo credo davvero, penso che sia una cosa assurda non dirlo, è proprio così. Spesso le politiche industriali italiane hanno fatto chiudere le fabbriche. Allora, adesso abbiamo un minuto di pausa, io vi fermo su due dati e poi sentiamo anche Fabio Scacciavillani, che è rimasto con noi. I dati, diciamo, quelli sono dell'aggiornamento delle cifre del lavoro, pochi ci fanno caso perché i giornali non rilanciano su questo, a me continua a preoccupare tragicamente. Se andiamo a vedere sulle ore lavorate, noi stiamo andando dal secondo trimestre del 2016 in diminuzione del totale delle ore lavorate nel nostro paese. Sì. Questo io lo dico perché, sapete, richiamare il numero come fa Renzi ogni volta gli occupati aggiuntivi post Jobs Act, se non lo incrocio per le ore lavorate non capisco che l'effetto indicativo di una produttività che continua a essere non negativa. Non solo, ma negli ultimi 20 trimestri sono solo le classi sopra i 50 anni a aumentare sistematicamente. Esatto. Quelle interne invece non aumentano. Che, come abbiamo spiegato mille volte, non è perché c'è un'ondata di assunzioni cinquantenni, è l'effetto demografico Fornero. Di continuità, esatto. Legge Fornero. E però anche questo, oltre, ripeto, al calo che oramai sta diventando molto preoccupante rispetto alla ripresa che era in corso al 2013, le ore lavorate nel nostro paese, se andiamo a vedere anno su anno, dati primo trimestre occupazione ieri, per essere chiari, l'aumento del totale del lavoro dipendente permanente, quindi contratto tutele crescente, il vecchio tempo determinato, è più 0,8% in un anno. L'aumento nel lavoro invece dipendente a termine è del 10,8%. Ha ragione Dario Di Vico a scrivere oggi sul Corriere: il bilancio, caro Renzi, non ti incazzare, è che le imprese non sono convinte dal Jobs Act. Dopo la decontribuzione tornano, per ampliamento di organici, al contratto a termine. Fratelli d'Italia, l'Italia alle mesta, dai tempi di Scipio finita è la festa, stringiamoci a corte, l'imposta è più forte, e fino alla morte l'Italia pagò. Sì. I conti della Belva. Allora, eccoci tornati qua in diretta con il mio compare Carlo Alberto Carnevale Maffè. È con noi il segretario Fincis, appena riletto il suo congresso, e dopo una filza incredibile di congressi provinciali veri, andate a vedere gli atti in tutta Italia di film CISL, e ci eravamo lasciati su questi dati, che sono quelli aggiornati ieri, quelli trimestrali, mercato del lavoro. In un anno aumento più 11% del contratti a tempo rispetto a totale crescente, che sono più 0,8%. Ho detto, secondo me ha ragione Di Vico, le imprese, oimè, pescano per l'ampliamento organici sul tempo determinato e non sulle tutele crescenti. E questo è un bilancio del Jobs Act. Il professor Martini si incazza, ma non so cosa farci. Dopodiché le ore lavorate scendono, e scendono ormai dal secondo trimestre 2016. Che dice Bentivogli di questi dati? Era evidente che sarebbe andata a finire così. Abbiamo detto molte volte, pur non essendo tra coloro che hanno avversato, non vi ricordo a tutti che noi rispetto a CGIL e UIL non abbiamo scioperato contro il Jobs Act, abbiamo cercato di fornire un contributo propositivo, ma abbiamo sempre spiegato che il Jobs Act non avrebbe risolto i problemi del lavoro. Il nostro è un paese bloccato, è un paese che deve spezzare i famosi lacci e lacciuoli, tutti gli ostacoli che ci sono per far ripartire l'industria, per quello che mi riguarda. E il Jobs Act si occupa per l'ennesima volta solo di mercato del lavoro. È importante, io non voglio dire che il mercato del lavoro non è. Solo che la parte utile doveva essere quella delle politiche attive, che non si vede proprio. Esatto, poi io continuo a dire che bisognava ragionare prima di politiche attive e dopo di flex, nel senso che adesso tra un po' saremo costretti, in parte già lo stiamo facendo, a richiedere un'ulteriore proroga di copertura di ammortizzatori sociali, non da caricare sulla fiscalità generale, perché in alcuni casi. Però Bentivogli, se noi torniamo alla CIG in deroga e alla vecchia mobilità, è come mettere bandiera bianca. No. Ho detto appunto non da caricare sulla fiscalità generale. La cassa integrazione ordinaria e straordinaria non vanno sulla fiscalità generale, la CIG in deroga sì. E è uno strumento che tra l'altro caricato in misura proporzionale per l'utilizzo dell'impresa e per la busta paga anche dal lavoratore, per cui è un'altra cosa rispetto alla CIG in deroga. Una volta però sarebbe utile vedere chi è che ha utilizzato la CIG in deroga in questo caso. No, anche questo giusto, anche questo giusto. Scopriremo che gli ordini professionali hanno giusto, anche perché ricordiamolo a chi ci ascoltava, lì il meccanismo regionale ha consentito, diciamo, parecchia opacità, ecco, diciamo così. Ecco. Però è chiaro che il nostro problema non è esattamente il mercato del lavoro, è un paese, il nostro, che ha bisogno di far ripartire tutto. Noi abbiamo una pubblica amministrazione che è una zavorra in molti casi per il funzionamento di un'impresa, e non solo, ma le stesse politiche attive, senza la riforma del titolo quinto, non so se Maurizio Del Conte si arrabbia ancora per quando dico queste cose, ma credo che faccia grandi fatiche a poter esercitare le sue cose. Invece le politiche attive sono una strada su cui puntare decisamente, sono assolutamente importanti. Allora, sentiamo un osservatore da fuori, tagliente, come Fabio Scacciavillani dovesse dire dopo anni che sta fuori dall'Italia, pur essendo, insomma, però per lavoro fuori dall'Italia, dovesse dire al segretario della FinCISL una cosa, due cose al massimo, al quale segnare davvero la svolta. Secondo Fabio Scacciavillani, quale potrebbero essere questi esempi? Ma io vorrei esordire dicendo che quando sento Bentivogli sono convinto, insomma, mi si apre il cuore e penso che quantomeno questo paese ha ancora una speranza, perché se da parte sindacale c'è gente che ragiona in questo modo, io non posso che essere positivo sul futuro di questo paese. Speriamo che questo modo di ragionare non si limiti a Bentivogli. E quando mi dice che la pubblica amministrazione è una zavorra per le imprese, ma io non posso che essere d'accordo, ma questa è la cosa che vivono oggi non solo le imprese, ma qualsiasi cittadino che entri in un ufficio pubblico e fa un salto nel Medioevo. Quindi almeno la consapevolezza del problema esiste. Ora, parlo non solo da economista, ma anche da consigliere di amministrazione di una di queste multinazionali tascabili italiane di successo, che ha un cuore italiano e stabilimenti in tutto il mondo, fa componentistica auto, termoplastica, si chiama Sigit, e quindi io vivo quotidianamente i problemi delle imprese italiane. Il problema delle imprese italiane, che non è stato affrontato dal Job Act, è la sovietizzazione dei rapporti di lavoro in un intreccio perverso di regole, interpretazioni, codicilli, possibili ricorsi al giudice del lavoro, eccetera, eccetera, che spaventa chi deve assumere e chi deve gestire una produzione che oggi è a tempi micidiali, richiede capacità di operare, capacità di seguire il cliente, capacità di adattarsi, che 20, 30 anni fa, 40 anni fa, i tempi di Lama, Carniti e Benvenuto, erano fantascienza. Quindi il Job Act o qualsiasi legislazione del lavoro deve prendere atto che il mondo è cambiato e non può continuare a basarsi su legislazioni, concetti e pratiche che oggi sono sparite. Allora, non ci si adatta a quello che è diventato il mondo globalizzato, dal punto di vista legislativo e della legislazione del lavoro, l'impresa, la manifattura, l'industria italiana non può sopravvivere. Allora, diciamo, qui c'è la lunga coda, ma molto più seria di quanto non fosse solo la deroga Fiat aziendale, su cui FinCISL si è battuta al punto tale da avere dirigenti e sedi devastate e malmenati o minacciati. Però, detto questo, il problema è esattamente il punto. Per andare indietro, l'evoluzione della domanda in tempi rapidissimi, quella internazionale, ma anche per la customizzazione del cliente, che non è solo industria 4.0, industria 4.0 certo, è uno sviluppo, ma il concetto è questo qua, servono tempi di confronto e luoghi di confronto, dove ci sono le curve di costo, dove ci sono l'utilizzazione degli impianti, dove ci sono i turni, eccetera, eccetera. Ci sono i numeri, Oscar, dove sono i numeri? La roba col contratto nazionale, questa roba qua non si può fare, questo è il punto sinteticamente. A che punto siamo su questo, Bentivogli? Ma io sono d'accordo, non so se il termine proprio è sovietizzazione, però comprendiamoci bene, non è che al lavoratore sia così contento che sia così complicato il mondo, Il lavoratore non ne è contento. Certo. Qui c'è un pezzo d'Italia che vive di rendita fatta di pigrizia ideologica, che crede che regolare tutto, no? Soprattutto con cose complicate, serva al controllo. In realtà serve ad annientare il controllo. Oh. Abbiamo visto che più le cose sono complicate, meno sono controllabili. Applauso. Noi abbiamo un problema drammatico di ideologizzazione del lavoro. In Italia non si parla di lavoro. Quando le più grandi rivendicazioni di una parte del sindacato, penso alla CGIL, sono i voucher, gli esodati, l'articolo 18, e ogni volta c'è un cartello come la Madonna della processione da portare con tanta ipocrisia dietro, è chiaro che lì si va a finire. E il problema vero è che le leggi, io ho scritto un articolo che ha destato un po' scandalo con Pietro Ichino sul Corriere della Sera. Oggi, se facciamo un'analisi fredda, quella che in Italia manca spesso, il rapporto con la legge e la contrattazione deve dare un unico bilancio, e cioè che la legge è inaffidabile. La legge cambia sempre. Bravo. Ma come si fa a far funzionare un paese con sei mesi, dopo sei mesi che bisogna cambiare certificazione, modalità di accesso alle cose, di sviluppo delle pratiche? La prima politica attiva, caro Marco, è la certezza del diritto. E se capiamo questa cosa qua... In Italia, io purtroppo sono un coniatore fantasioso... In Italia c'è la certezza del contenzioso, non a caso abbiamo il numero di avvocati di Lombardia pari a quello della Francia. Perché i mandarini burocrati spesso hanno un indicatore che purtroppo diventa l'indicatore della rassegnazione del nostro paese, in quante norme e in quanto riescono a bloccare, a rendere farraginose le cose. E proprio per questo io e Ichino abbiamo detto, visto che le leggi cambiano continuamente, sono inaffidabili, puntiamo sulla contrattazione, e sulla contrattazione quella che sta vicino a dove si lavora, dove si crea la ricchezza e si deve distribuire, che è la contrattazione aziendale e territoriale. Va bene, ragazzi, noi su questo però dica. Su questo però è vero che la CGIL deve cambiare, ma altrettanto con fiducia. Altrettanto vecchia. Esatto. No, perché i sacerdoti del vecchio rito. Io condivido, sì. l'ho scritto, lo penso da anni. I sacerdoti della contrattazione nazionale non sono solo nel sindacato. No, la messa cantata, per essere chiari, sta anche in via dell'astronomia. La mia esperienza personale, l'ho sempre detto, ma lo torno a ribadire, che la stessa uscita della Fiat da Confindustria, che aveva origine nell'idea di come fare il contratto in Fiat, si doveva all'opposizione dell'allora direttore generale di Federmeccanica di Confindustria, non meno che al proprio CGL. Quindi Marco, non mi metti in imbarazzo, ma è un pezzo della mia storia vissuta, averla constatata quella roba lì. Quindi altro che, e non credo che sia solo passato remoto, ecco, cioè, riguarda ancora un po' il presente, per così dire. Però ragazzi, non va bene Fabio, non va bene Carlo Alberto, non va bene Oscar Giannino. Noi qua sembriamo gente che vogliamo iscriverci alla Film Cisle, noi dobbiamo polemizzare con Marco Bentivogli. Però intanto lo ringraziamo e Dio lo preservi e continui a fare questo mestiere finché naturalmente la sua associazione lo sceglie, ma anche dopo, magari in confederazione. Io, questo è il mio sogno da sempre, perché c'è bisogno di gente così. Questa è la nostra opinione, pronti a essere autonomi intellettualmente, ma riconoscere con grande sincerità che in questi anni abbiamo visto emergere una capacità di riflessione tagliente e accurata sui fatti, pochissima ideologia, praticamente nulla, autocritica, rilancio sui temi, alla politica, alle imprese. Ecco, ci piace questo spirito qua. Grazie a lui, noi intanto torniamo tra un minuto. Fratelli d'Italia, l'Italia l'è mesta, dai tempi di Scipio finita è la festa, stringiamoci a coorte, l'imposta è più forte. Conti della Belva. We have a mission to make Britain a country that works, not for the privileged and not for the few. She's speaking, she's Theresa May. Our citizens. And together, we, the Conservative Party, can build a better Britain. She's a liar. She's a liar, liar. No, you can't trust her. No. Allora, questa raffeggiante, molto divertente, è numero 2 in classifica nel Regno Unito. Era meglio degli exit poll, hai visto? alla domanda, vi potete fidare di noi? No, she's a liar. Ed era Theresa May, per essere chiari. Allora, è con noi per parlarne Udo Gumpel. Come stai, Udo? Sto benissimo, è una settimana fantastica, veramente due grandi bugiardi hanno preso delle belle legnate, perché è la May, come avete chiamato in Inghilterra, la chiamano adesso May Day, che vuol dire emergenza. Oppure no? Mayhem, che vuol dire caos. Sì, infatti, sprecano, che avrà una vita breve, media breve. Io da fisico, sapete, devo misurare la vita media, e della sua viene data dai suoi stessi conservatori, dai Tories, al 6 mesi al massimo. Non la cacciano adesso, però quando lei si è presentata a Downing Street a dire che adesso lei forma il governo, niente scuse, niente riconoscimento della sconfitta, lei vive in una situazione che si chiama dissociazione cognitiva. Lei non capisce più che cosa sta intorno, e lei difende dei concetti che sono in contrasto uno con l'altro, cioè è proprio un caso clinico. Certo, Udo parla anche a qualcuno nel nostro paese. Prima il colossale errore di David Cameron nel convocare il referendum e nel perderlo clamorosamente, poi il colossale errore delle elezioni anticipate convocate da me dicendo io rifondo il partito conservatore addirittura con la nuova ideologia più sociale eccetera eccetera, che finisce in questa maniera indegna. A qualcuno anche in Italia dovrebbe arrivare il messaggino, no? Ma secondo me a qualcuno dalle parti, io sono a Roma, qualche tipo 200 chilometri a nord dovrebbero suonare, però è chiaro che quello lì, chi vive nella dissociazione cognitiva non capisce la realtà, o la legge a modo suo, dico non la capisce, la legge a modo suo, nel cervello dei reparti stagni che sono separati uno dall'altro, ovvero il mondo dei fatti non è collegato al mondo delle sue elaborazioni dei fatti, molto semplice. Certo, no? Questo governo, io penso come te, è un po' impressionante il tono con cui Theresa May è creduto di uscirne. Ma il governo non va da nessuna parte, non solo tanto per immagine, ma quegli unionisti nordirlandesi, per chi conosce i loro 30 punti, renderebbero ancora più impraticabile. Comunque una breccia su cui, diciamolo chiaro, il bilancio di queste elezioni anticipate britanniche è che non hanno aggiunto una sola parola di chiarezza su come si fa davvero al contrario, la trattativa, ancora più confusa la per situazione. Due anni, né da parte dei conservatori né da parte dei laburisti, però è pazzesco questo. E nei 30 punti degli unionisti nordirlandesi c'è scritto che vogliono la libertà, dice, la libera circolazione delle persone, perché sono l'unica parte di Gran Bretagna ad avere il confine fisico con l'Irlanda del Sud, e vogliono l'accesso ai fondi agricoli e ai fondi di coesione, che mi pare veramente fantastico se devi trattare per la Brexit. Che dici, Udo? Ma infatti è proprio una contraddizione in termini, non dovresti fare un governo di coalizione con chi la pensa come te, ma gli unionisti la pensano come europei, nonostante che fossero dei figli del pastore ultraconservatore Paisley, no? E dunque vogliono mantenere il legame con il Regno Unito, però dal loro punto di vista politico, economico, sociale vogliono rimanere in Europa. E pensate che questo è il contrario di quello che vuole la signora May, no? Che era per Remain, mio Dio. Ma in Germania... No, poi l'altra notizia fantastica, anche se è ancora secondo, più triste, perché è naturalmente Comey, no? Il direttore dell'FBI, che in un'intera giornata spiega che il presidente degli Stati Uniti è un liar, un bugiardo, e che diffama l'FBI, diffama l'istituzione più onorata, più stimata degli Stati Uniti. Cioè essere un agente dell'FBI è qualcosa come un portatore di verità sacra negli Stati Uniti, non è la CIA che manda gli sigari avvelenati per togliere il disturbo a qualche dittatore amico, peraltro normalmente degli Stati fino Uniti. A ieri. No, l'FBI è proprio la istituzione numero uno degli Stati Uniti, però combatti una guerra su questo, contro la tua stessa istituzione. Su questo accetta un'obiezione, io sono andato a vedermi i testi, perché ho visto, eccetera, eccetera, soprattutto poi mi ha molto colpito la sera stessa uno degli editoriali, commento, The Washington Post, quindi non è che uno può dire un organo trampiano, che diceva: guardate però che chi ha ascoltato bene con attenzione, leggetevi bene i testi, alla fine la Casa Bianca dirà con qualche punto di ragione. Ma la Casa Bianca ha il suo punto a favore. Nel senso che Comey, quando si è trattato di rispondere a domande cruciali, ha dovuto dire: primo, non era indagato; secondo, io ho pensato che lui mi chiedesse. Cioè, insomma, diciamo, come non è andato dritto al punto, ci ha molto girato intorno. Lui ha detto però alcune cose, non l'ha detto in dibattito pubblico, perché su molte domande cruciali, direi, ha dovuto dire, e sono domande della sicurezza nazionale che io posso dire solo a porte chiuse, segretario. Perciò io posso solo rispondere a porte chiuse. Ma tu devi capire il principio di Trump è venuto fuori. No, questo il principio è lui chiede assoluta sottomissione, loyalty, e quando uno non è loyale nei suoi confronti, per dichiarazione di sottomissione, questo è un sistema dittatoriale, è il sistema del potere personale. Però posso spezzare una lancia? Dittatoriale no, personale sì. Esatto, posso però spezzare una... No, è vero, dittatoriale no, perché è un potere personale, però dittatoriale sì, perché le nostre democrazie non si basano sulla fedeltà alla persona, esatto, questo... ma si basano sulla fedeltà alle leggi, alle istituzioni. Ecco, quindi voglio... questo è un fortissimo contrasto col sistema democratico parlamentare. Bravo, che abbiamo, voglio spezzare la lancia a favore del modello americano, che in poche settimane ci mette in un dibattito pubblico le opinioni a confronto con dei documenti ufficiali, un'audizione ufficiale. Io lo trovo spettacolare tutto questo, a fronte del fatto che in Italia abbiamo qualcuno che invece cerca i documenti e li costruisce per magari provare a condannare qualche nemico politico. Scusate, ma tutta la vita applaudo la democrazia americana, anche se vota Trump e poi dopo si interroga sui modelli e sugli strumenti. Sì, questo è, peraltro, voi dovete vedere, leggere come voi leggete anche l'inglese correntemente, a differenza di molti politici italiani che anche hanno difficoltà con l'italiano, no? Quelli, soprattutto la nuova generazione. Dobbiamo offrire, ma secondo me alla Camera, un corso congiuntivi, sintassi di base, no? Insomma, basic, sappiamo a cui mi riferisco, no? E allora, e quello che in realtà, la cosa buffa è drammatica in realtà per Trump, e queste cose le legge, nella parte dell'elettorato americano, quella che è meno istruita, i cosiddetti 10%, che erano quelli che hanno dato la vittoria a lui, no? Quelle persone. Sì. Semplici lavoratori. E verso le quali io ti dirò non condivido il razzismo di solito etico del radicalismo chic. Non c'è nessun razzismo, okay. Non c'è nessun razzismo sociale verso di loro. Mm-hmm. Quelle persone che erano schifati dall'andazzo della Clinton di Washington, del potere, come si direbbe qua, Trump ha perso tantissima stima, tant'è vero che lui sta lì adesso al 36%, ed è per un presidente appena entrato in ufficio è il valore più basso della storia degli Stati Uniti. Dunque non sono gli intellettuali che lo preoccupano, no? No, certo. Come noi con le nostre disquisizioni su Stato, no. La sua forza sono stati i working poor, per essere chiari. Esatto, è bravo. I working poor e anche i non working poor, ovvero considerate sempre che negli Stati Uniti che si favoleggia della piena occupazione, che è una gran cavolata, che loro hanno un tasso di occupazione del 60%, che è poco al di sopra dell'Italia, falsificano nei confronti, per esempio, delle statistiche europee anche il loro dato di disoccupazione, quando dicono che il 4,5% secondo criteri buffi americani. Se fossero criteri, per esempio, tedeschi, avrebbero 12% di disoccupazione, mentre il tasso di occupazione che l'Europa vuole avere dai suoi paesi, 70-75, i migliori in Europa sono intorno all'80%. Cioè, voi dovete capire che quello delle statistiche è un terreno assolutamente minato. A seconda di come costituisce, non lo sanno. Ma molti giornalisti non informano bene, perché secondo me non lo capiscono neanche loro, e questo, diciamo, è la mia supposizione simpatica. Non infondata, no? Perché non potrebbe infondata. Essere anche quella che loro lo sanno meglio e invece raccontano le bugie, no? Liars sono gran parte. Dunque bisogna informare. Io però mi fido dell'intelligenza degli ascoltatori, del pubblico. Secondo me le bugie non hanno le gambe cotte, purtroppo possono camminare molto in internet, in quella rete dei deficienti dove due idioti fanno immediatamente un blog e diffondono il verbo della idiozia, lo abbiamo visto nei vaccini, no? Noi due, quando appena facciamo un tweet, un blog sul vaccino, vediamo coperti di insulti. Coperti di insulti da parte di quelli che dicono che è Big Pharma che ci inocula le scie chimiche, no? Siamo a Libro Paga, che vuoi fare? Esatto, siamo al libro, ma certamente sono al libro paga, no? Del grande ma è inutile negarlo, no? L'unico problema è che il Big Pharma, il Big Capital ci paga così poco, però esatto. Questo è il nostro problema, che siamo troppo stupidi a farci pagare meglio. Va bene, no? Comunque questa settimana due Big Liar hanno fatto i conti, perché i conti poi alla fine devono tornare, quando non tornano non te l'aspetti, ma sul tavolo ti tornano con quello che hai seminato. Grazie, Udo Gumpel, noi torniamo tra un minuto con Renato Cifarelli. Faircam Transport, puntuale ed efficiente nel rispetto dell'ambiente. Scopri di più su faircam.com. Vi presenta Fratelli d'Italia, l'Italia alle mesta. Dai tempi di Scipio finita è la festa. stringiamoci a corte, l'imposta è più forte e fino alla morte l'Italia pagò. Sì! I conti della belva. Ed eccoci qui, rimasti due compari. Caro Alberto Carnevale Maffè. Ma però, come il vecchio Domenico Modugno, ve la ricordate la vecchia canzone di Domenico Modugno? Siamo, c'era, era con Ciccio, con Franco Franchi e Ciccio Corsia. Siamo solo in tre briganti e tre somari sulla strada da Gigi. Niente, no. Oltre il vetro non si ricordano questa cosa, ma è arrivato il terzo compare mentre ci cercano la canzone. Che quanto a briganti, dico bene, Renato. Renato, come stai? Buongiorno ragazzi, come state? Siamo oggi è una bella puntata, molto frizzante. Stavo guardando che siamo sempre più una banda di non allineati. Prima o poi ci fanno fuori. Prima o poi, sai, il movimento dei non allineati. Ma vedremo chi canterà. Vediamo. Bene l'ultimo. Bandung, la famosa conferenza di Bandung. Però mi sa vediamo, che siamo in. Questa è una banda di non allineati. Sì. Sentite, allora, siccome in questa settimana sono usciti, e ne abbiamo parlato anche oggi in trasmissione, un po' di dati sul lavoro, io volevo confortare tutte le persone dicendo che noi imprenditori, quando troviamo le persone di valore, cerchiamo di tenerle. Ma davvero? Pensa un po'. E però, vedi, quando tu leggi gli articoli, sembra sempre che l'imprenditore faccia di tutto per rendere incerto il futuro delle persone. Sì. Invece è il contrario, l'imprenditore ci terrebbe moltissimo ad avere persone che sono formate, che sono brave, che hanno voglia di lavorare, che hanno voglia di imparare, eccetera eccetera, e dargli un futuro, perché il futuro delle persone che lavorano con te è il futuro della tua azienda. Quindi non è che si divertono a fare i contratti a tempo determinato. Il vero problema in questo momento è che l'incertezza è quella che sta uccidendo l'economia. Questo è quello che succede. E lo ricordava prima Marco Bentivogli, no? Che l'incertezza del diritto si trasforma. No, ma l'incertezza anche su domanda estera italiana, secondo me, questo ci sta dicendo, no Renato? Il problema dell'incertezza. Allora, voi prendete una settimana come questa e immaginatevi di avere uno dei mercati più importanti, che è l'Inghilterra. Voi la settimana scorsa che piani avreste fatto? Un piano con un punto interrogativo grosso come una casa. E questa settimana che piano fate con un governo che non c'è? Resta il punto, esatto. Due punti interrogativi, esatto. Punto esclamativo, facciamo vedere. Allora, che abbondiamo. Se io ho dei punti interrogativi e quindi non ho certezza di quelli che saranno i carichi di lavoro, non posso fare altro che cercare, visto che, come diceva prima anche Bentivogli, in Italia, fra leggi, non leggi, leggine, è diventato un disastro la gestione del personale. Cosa fanno le aziende? Si difendono come possono, ma per il bene dell'azienda, mentre sarebbero ben felici di trovare le persone giuste. E questa motivate. È la spiegazione del tempo determinato. No, no, ma questo è. Fai benissimo a richiamarlo, no? Perché altrimenti sembra che sia una specie di sadismo degli imprenditori che dicono: cosa vuoi pensare tu? A farti una famiglia di figli? No, perché io te lo impedisco, tra sei mesi devi poi morire. Purtroppo, devo dire con grandissimo dispiacere, devo dire che ultimamente la qualità delle persone che arrivano dalla scuola è abbastanza basso. Ma e questo quindi è il problema però del mismatch, non è colpa loro individualmente, è un problema complessivo, tra i profili formativi problema della formazione pubblica e quello che serve davvero al mondo del lavoro e alle imprese, questo è il punto. Non è un problema, naturalmente non ne faccio un problema, cioè non ne faccio cioè non stai colpa dicendo appunto, no, sono i pigroni. Ai ragazzi, eccetera, eccetera, anche se ogni tanto qualcuno, diciamo che anche nei colloqui non è che proprio dia il massimo dell'impressione di aver voglia di lavorare, ma questo sono cose individuali e non si possono generalizzare. Il problema della mancanza diffusa di profili e competenze è un problema che l'Italia continua a dire no al modello duale di istruzione, quello in cui c'è il ciclo della secondaria ha un'importanza fondamentale in quello professionalizzante. Noi abbiamo fatto l'opposto, il ciclo di istruzione terziaria e post terziaria è professionalizzante, noi abbiamo fatto l'opposto. Noi consideriamo se un'impresa mette un soldo nell'università ci sono i professori che guidano, certo, gli studenti, no, a dire, no, la mercatizzazione! Non solo, ma nell'ambito STEM, cioè delle discipline tecnico-scientifiche, noi siamo nettamente più indietro in Europa, insomma, purtroppo. Adesso però... ma poi, oltretutto, adesso siamo anche in un momento che è disruption. Cioè, noi siamo in un momento peggio in cui mi sento, cambierà tutto. Peggio mi sento, perché cambiano i paradigmi, però, siccome cambiano i paradigmi, tutto. Ma il nostro spirito resta questo, cari compari, resta questo. Siamo rimasti in tre, tre somari e tre briganti, sulla strada longa, longa, longa di Girgenti. E adesso vede il bello. Sì, ma se stasera, se incontriamo la corriera, uno balza sull'accione, una ciuffa il postiglione, due sorvegliano di fuori, uno spoglia il viaggiatore, ce ne andiamo. Perché questo noi ci proponiamo di fare. Ma se siamo tre, tre somari e tre briganti, solo tre. Ecco, questa è la filosofia, cari ascoltatori, di questa compagnia dei Conti della Beppe. Lo sappiamo che siamo tre, quattro gatti, però alla fine ce la faremo. Sì, esatto, anche se dobbiamo assaltare, che teniamo cosa? Un Flixbox. Dobbiamo duro. E grazie Renato per averci ricordato che gli imprenditori non sono i sadici, i masochisti, di cui una parte della cultura nazionale è ancora ostile all'impresa, ma soprattutto lontana dalle ragioni della comprensione di che cos'è davvero un'impresa, del perché si fa e del perché ci si butta tutti i giorni. Credono ad attribuire a una specie di propensione e malattia psicologica ciò che invece deriva dall'incertezza sulla domanda. Grazie, grazie a tutti, continuate su Radio 24. Stringiamoci a corte, l'imposta è più forte.